America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. On this vote, the yeas are 50 and the nays are 50. The Senate being equally divided, the Vice President votes in the affirmative. Beh, giornata drammatica, devo dire, ieri al Senato. Avete sentito che c'è stato un conteggio di voto che ha comportato la presenza di Mike Pence, vicepresidente, per dare a Donald Trump una, beh, diciamolo, una vittoria di Pirro. Perché? Perché il presidente ha chiesto, lo ricordate, ve l'avevo detto giorni fa, di tornare a dibattere la riforma sanitaria, e dunque si è andati al voto per il dibattito, e in effetti il voto è passato, 51 voti contro 50. Il 51esimo voto è stato quello proprio di Mike Pence, il vicepresidente degli Stati Uniti. Ma perché questa vittoria è una vittoria di Pirro? Ma perché, insomma, mancava un testo, mancavano dei dettagli. Si sapeva che comunque i senatori alla fine non avrebbero votato per una riforma. Perché? Ma perché questa riforma che propone Trump prevede che 30, tra i 30 e i 40 milioni di americani non ricevono più l'assistenza sanitaria, e dunque diventa politicamente molto imbarazzante, soprattutto per senatori repubblicani che l'anno prossimo dovranno presentarsi alle urne. E difatti cosa è successo nella notte? Beh, è successo che quando c'è stato il voto per abolire l'Obamacare, non è passata la richiesta di Trump, addirittura con una maggioranza molto forte contraria. E dunque questo conferma che non c'è molto futuro per questa riforma sanitaria. Ma il punto centrale di oggi, secondo me, è un altro, perché è vero che c'è stato Pence, il 51esimo voto, però il voto veramente determinante per questa vittoria comunque di facciata di Donald Trump sul fatto che si continuerà a dibattere la riforma sanitaria è venuto da John McCain, il senatore John McCain, che ricorderete aveva avuto dei problemi con una piccola operazione al cervello. Nel fargli questa operazione i medici hanno scoperto che aveva un cancro terminale. Ebbene, nonostante sia malato, ha lasciato il suo letto d'ospedale e si è presentato in aula per votare questa proposta e per aiutare Donald Trump, che, pensate, lo ricorderete, durante la campagna elettorale lo aveva deriso. Poi Trump stesso in qualche modo gli ha reso omaggio. Sentiamo. The motion to proceed on healthcare has just passed. This was a big step. I want to thank Senator John McCain, very brave man. He made a tough trip to get here and vote. Siamo riusciti, dice il presidente americano, a fare un passo gigantesco per smantellare il disastroso Obamacare. Un ringraziamento particolare va a John McCain, che si è presentato in aula dando prova di grande coraggio e dedizione. Ecco, queste dichiarazioni del presidente americano erano alla Casa Bianca subito dopo l'incontro con il premier libanese Saad Hariri. Ecco, senza il voto di McCain, senza che McCain si fosse recato in aula, senza che avesse preso un aereo per venire a Washington, per lasciare le sue cure e per votare, non ci sarebbero stati quei 51 voti che hanno consentito di avviare, quantomeno dal punto di vista formale, come vi dicevo, una revisione procedurale. E dunque è a McCain che oggi voglio dedicare la trasmissione, perché di nuovo conferma quest'uomo. Io ho viaggiato con McCain in Vietnam, dove è stato prigioniero. Era un viaggio durante l'amministrazione di George W. Bush, ed è stato accolto, devo dire, in Vietnam quasi come un eroe dagli stessi vietnamiti, perché John McCain, lo ricorderete, un eroe di guerra, era un pilota. Il suo aereo fu abbattuto, fu rinchiuso per quasi 6 anni in un carcere a Hanoi, ha subito torture, e queste torture che ha subito hanno lasciato danni permanenti sul suo fisico, al punto, pensate, infatti, quando si muove ha un problema alla spalla destra, non riesce nemmeno ad alzarla per potersi pettinare, e ha dei movimenti strani, ha questo braccio un po' rattrappito, eppure ha una grandissima lucidità. È stato, come molti di voi ricorderanno, un avversario straordinario contro Barack Obama, ha vinto la nomination repubblicana, la nomination del suo partito, e poi, come dire, fece una scelta un po' particolare, perché a un certo punto lui avrebbe voluto scegliere Lieberman, avrebbe voluto scegliere Joe Lieberman, senatore del Connecticut, un senatore ex democratico che poi divenne indipendente, e invece scelse Sarah Palin. Ero alla convention quando ci fu l'annuncio annuncio, un annuncio a sorpresa, perché nessuno avrebbe mai immaginato che potesse esserci una donna come Sarah Palin alla candidatura per la vicepresidenza degli Stati Uniti d'America. E come sappiamo, John McCain, diciamo, non era già allora in splendida forma, e dunque è plausibile, è credibile che un vicepresidente a un certo punto nel corso dei 4-8 anni del mandato possa poi diventare presidente. E ci fu una reazione lì per lì straordinaria, sembrava una mossa vincente. Poi invece la Palin si rivelò per quello che era, molto di destra, un estremista, poco articolata, molto ignorante. Diceva che lei vedeva la Russia dall'altra parte della capitale, Juneau, la capitale dell'Alaska, da cui conduceva gli affari politici. Persino Donald Trump durante la campagna elettorale attaccò McCain. Sentiamo. He's a war hero. He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you. Do you agree with that? He's a war hero because he was captured. Ecco, qui Trump fu una delle grandi cadute di stile. Per questo devo dire, Trump non so come andrà a finire alla fine, perché è troppo provocatorio. Riferendosi a McCain, che comunque è un uomo veramente di grandissima statura, lo dimostra quello che ha fatto oggi: è andato al Senato a votare malato di cancro, nonostante chi gli chiedesse di andare a votare avesse detto, ecco, questa dichiarazione: un eroe di guerra John McCain, forse, ma io preferisco i soldati che non si fanno catturare. Ecco, questo fu un colpo basso. John McCain naturalmente ci rimise molto male, perché fu un attacco personale, ma la sua risposta fu all'altezza della sua grande statura. Fu una risposta decisa e umile. Disse: per me è stato un onore servire in battaglia per il mio paese. Trump però non deve le scuse a me. Io non sono un eroe. Lo sono tutti coloro che hanno combattuto con me, che sono stati catturati e che sono morti per gli Stati Uniti. Ecco, da allora l'accetta, come dire, è stata sepolta, e ieri c'è stato un discorso davvero molto toccante di McCain subito dopo il voto procedurale. Sentiamo. I'm going home for a while to treat my illness. I have every intention of returning here and giving many of you cause to regret all the nice things you said about me. It is an honor to serve the American people in your company. Thank you, fellow senators. Ecco, qui McCain fa una battuta, dice: beh, adesso sono venuto per questo voto, ma adesso tornerò a casa per curare la malattia. Tra l'altro Barack Obama aveva fatto un tweet molto simpatico, molto sentito, molto commovente. Aveva detto: caro John, adesso tu occupati di questa malattia, perché il cancro non ha mica ben capito con chi avrà a che fare. E dunque McCain dice: tornerò a casa per curare la malattia, ma sono fermamente intenzionato a tornare, di modo che possiate pentirvi di tutte le parole gentili che mi avete dedicato in questi giorni. Ribadisco, è stato per me un onore servire l'America in vostra compagnia. Grazie, grazie compagni senatori. Ma c'è stato anche un appello, perché McCain ha invitato il Senato a tornare a lavorare unito per gli americani, mettendo da parte gli interessi politici personali e per aprire al compromesso. Ha detto: colleghi, non abbiamo concluso niente, a parte la nomina di Neil Gorsuch alla Corte Suprema, niente, dobbiamo fare qualche cosa, ha ammonito. E il paese però resta spaccato. Come vi dicevo, questo voto procedurale alla fine probabilmente non porterà a granché. Trump continua a accusare i media di fabbricare fake news, dice di essere una vittima della caccia alle streghe sulla questione del Russiagate, e non solo, ha attaccato di nuovo in modo ancora più maldestro di quanto abbia fatto finora il suo segretario alla difesa Session. Ma insomma, se non vuole Session, che glielo dica, che gli dica: caro Jeff, io t'ho nominato, però guarda, accetto le tue dimissioni, vattene. Invece c'è questa specie di duello a distanza, e ieri è stato di nuovo molto aggressivo. Ci sono stati dei tweet: il ministro della giustizia Jeff Sessions ha preso una posizione molto debole sui crimini di Hillary Clinton e sulle fughe di notizie dell'intelligence. Dunque l'attacco continua, sembra che ormai sia una questione di tempo per le dimissioni di Sessions. Tra le possibili alternative sappiamo che c'è l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani e il senatore repubblicano Ted Cruz. E sempre parlando di persone insoddisfatte, qualcuno dice che anche il segretario di Stato Rex Tillerson potrebbe presto lasciare il proprio incarico a causa di disaccordi con il presidente Trump. Insomma, il nostro presidente non finirà mai di stupirci, ci tiene sempre in tensione, è sempre un grande intrattenimento, però credo che forse nella giornata in cui John McCain ha cercato di ridare all'America quella patina che conoscevamo, un'America orgogliosa, un'America seria, un'America pronta a lavorare, coraggiosa, che non si perde in attacchi personali, beh, forse in quella giornata Donald Trump poteva semplicemente limitarsi a ringraziare un senatore che aveva insultato e che nonostante tutto è andato a Washington per aiutarlo in uno dei suoi obiettivi, quello di portare avanti una riforma sanitaria che credo difficilmente poi passerà al voto finale.